La Beota Beata. La si vedeva gironzolare per il centro nei giorni di mercato. Assorta, estraniata da un mondo che pareva non interessarle e nel quale invece la sua palese alienità non cessava di suscitare grande interesse, incurante del viavai di auto, buse e passanti che la circondava, senza posa incedeva con passo lento e cadenzato per le vie e le piazze della città. E camminando, le mani sottili giunte sul ventre a stringere e sgranare un rosario bianco di plastica, pregava ad alta voce. Non era un'ecolalia di formule sacre ciò che fuoriusciva dalle sue labbra e dal suo corpo tutto, teso in fervida orazione, bensì un parlare rapido, incalzante e talora concitato a un interlocutore con il quale lei sola sembrava poter dialogare. Con voce dolce, pure ferma, raccontava, confessava, intercedeva, interpellava, supplicava, chiedeva perdono e a sua volta perdonava, conversando confidenzialmente con un tu che si intuiva, ascoltandola, essere personale almeno quanto universale. Non c'era voce, rumore o atto esterno che fosse in grado di disturbarla e di incrinare il suo perpetuo raccoglimento, quasi che avesse deposto sensi e percezioni immanenti per consacrarsi a un senso tutto, tutto suo. Di nessun avventore, la notasse pure con indifferenza, dileggio o compassione, incrociava mai lo sguardo. I suoi occhi, ciechi e corruttibile, vagavano vuoti e inerti, dimentichi del proprio corpo e mossi solo in sciocco riflesso materico, d'un moto che non agiva a spazio fisico alcuno. Rivolti alternativamente a terra, al cielo e alla lontananza di un orizzonte ignoto, essi trapassavano ogni corpo, appoggiandosi brevemente, anziché vederlo, su ciò che sfioravano. Era imperturbabile, impenetrabile. Nulla e nessuno avrebbe potuto trarne la benché minima conferma del proprio esistere. E certo era questo di lei a spaventare tanto la gente. Spaventare, sì, giacché solo un'inconfessabile paura poteva motivare l'aggressiva ilarità e lo scherno di molti testimoni occasionali o abitudinari. Donna esile, minuta, di rara ordinarietà, sulla trentina ma senza età, la sua bizzarra insignificanza riusciva a suonare misteriosamente interlocutoria. In modo evidentemente ingenuo, certo, e tuttavia a fortiori impudente, inquietante sino alla minaccia. Indosso portava sempre i medesimi abiti, salvo minime concessioni alla stagione e al clima contingenti. Vestiti semplici, dozzinali, però puliti. Una camicetta bianca, una gonna marrone lunga fino al ginocchio e ai piedi sandali, di quelli per intenderci, senza tacco e con i lacci spessi, di fattura austera. Portava i capelli, lisci ed un castano scuro, raccolti in una lunga treccia che le carezzava la schiena. Il viso comune, dall'incarnato chiaro e mai sporcato da qualsivoglia ombra di cosmetico, riproponeva in altra forma l'abbandono e la serenità scanditi dal ritmo armonico, religioso del suo piccolo corpo in processione. Il volto e il passo rispondevano a una medesima danza metafisica. Si muoveva, con le gambe, con le labbra, con gli occhi. Eppure la lenta e invariata cadenza del suo mantra le conferiva una curiosa impressione di immobilità, straordinaria manifestazione d'un procedimento artistico innescato a ritroso. Incarnava la grazia d'uno di quei ritratti che la maestria del pittore ha immortalato e reso vivi, placidamente animati in eterno. E veramente, vedendola, veniva da domandarsi se mai il caso avesse messo quella donna sulla strada d'un artista. Infatti, la congiuntura avrebbe potuto produrre, o forse, chissà, a quest'ora già prodotto, un'opera straordinaria. Se l'estasi può dirsi l'estetica dello spirito, allora lei, che pareva averne cognizione ed esperienza come nessun altro, ne era la più vivida essenza. Veniva in città nei giorni di mercato, di prima mattina. L'autobus che la portava fermava proprio nel piazzale del mercato. Era lì che il suo fervente cammino, accompagnato solo dal bianco amuleto e dal pacato salmodiare, prendeva l'abbrivio. Di conseguenza era nota soprattutto tra i commercianti e gli espositori, che allestendo i loro banchi in città ogni volta la vedevano scendere dal bus e dare inizio al suo inesausto peregrinare. «Le rivada, la beota beata, le rivada!» dicevano allora, e guardandola scendere e poi mettersi in sequela, ridevano e si davano una voce. Questa si propagava quindi per la piazza, ancora occupata dai soli ambulanti, con un'allegria crassa che testimoniava di un fenomeno atteso e persino desiderato. Nel tempo era divenuto un augurio di buongiorno, tanto più gradito in quanto bizzarro e quindi caratteristico, familiare, immancabile prova di una di quelle intese reiterate che rendono gli uomini complici, nell'amicizia come nella stupidità. Ma lei non sentiva, o almeno nella sua persona non si verificava alcuna reazione, alcun mutamento che potesse muovere a supporlo. una consuetudine che in genere accomuna tutti coloro che comunemente sono considerati matti, malati di mente. Eppure, a ben guardare, molte volte la causa della loro nomea si risolve più in una questione di opportunità, di presunta adeguatezza alle circostanze, che non di effettiva eccentricità. Il luogo in cui ci troviamo condiziona fortemente la nostra condotta, imponendoci usanze e modi consolidati. Chi non vi si attiene è perciò additato come un disturbatore o, peggio, come un pazzo. In definitiva, non c'era nulla di davvero strano nel comportamento della beata Beata. Semplicemente pregava. La vera follia di tanti cosiddetti matti è spesso un'eccentrica ubiquità, l'incapacità di discernere pubblico e privato, luoghi e relative convenienze, un sentirsi perennemente in libertà, a casa propria. Il fatto di non rilevare il ludibrio della gente, dunque, non testimonia necessariamente di una loro irriducibile stupidità. Al contrario, tale impassibilità potrebbe persino celare una muta e sommamente ironica forma di tatto, di delicatissima tolleranza nei confronti di chi non sa discostarsi da una stolida suefazione alla norma. Sta di fatto che, imperterrita nel suo autismo, la beata Beata camminava e pregava, pregava e camminava, un pochina sulle spalle ma dritta per la sua peregrina via di redenzione. E veramente i due atti, moto e orazione, s'erano a tal punto fusi, compenetrati, consustanziati, che sarebbe stato impossibile discriminarli, individuarli come fenomeni sincroni e distinti. Si sussumevano a vicenda, la simultaneità divenuta ormai coessenza, cosicché l'avanzare delle sue parole era il levarsi dei suoi piedi. E se tutt'attorno al suo passaggio la gente puntava il dito, scuoteva il capo e sogghignava, i ragazzini seguendo la tratti per carpirne più parole e risa, lei non dava alcun segno d'accorgersene, dalché il suo immutabile procedere traeva una dignità statuaria, regale. Alla pietà da serva accompagnava la maestà d'una regina. Ed era straziante e insieme stranamente pacificante vederla così, bambina indifesa e questuante inarrendevole, tesa nella sua giaculatoria spirituale tra gli spiritosi lazzi degli astanti. Veniva fatto di pensare, in una maniera del tutto irrazionale, che la sua incessante opera fosse in realtà una forma di espiazione sacrificale, di altruistica devozione, volta proprio a intercedere, a redimere i motti dissacranti che lei stessa, con quella, ovunque passasse suscitava. Quasi che, col guadagnarsi il loro sprezzante giudizio di pazzia, ella intendesse invocare e guadagnar loro la celeste riconciliazione. È propria di tutti i folli una qualche sorta di grandezza, ma l'agire di quella donnina sembrava piuttosto la follia, la folle utopia di una grande anima. E ogni volta, la sera, faceva ritorno al piazzale del mercato dove, ancora pregando e passeggiando avanti e indietro lungo la fermata, sita su un lato stretto del grosso spiazzo rettangolare, attendeva l'arrivo dell'autobus. Non appena salita sedeva e subito prendeva a cullarsi, come per sopperire al venir meno dell'altro moto. E di lei, dal di fuori, non si distingueva più che il dondolio del busto e delle labbra al di là di un finestrino. Solo quando il bus si rimetteva in moto, solo allora all'improvviso si arrestava. E adagiandosi contro lo schienale, la bocca socchiusa e ferma, finalmente guardava, fuori. E, lo si capiva, ora vedeva la piazza e gli affaccendati mercanti che già stipavano la merce nei furgoni e ritiravano i banchi. Poi, vi si creda o no, quando il roboante avvio del motore si propagava per lo spiazzo, non v'era commerciante che non puntasse gli occhi sul piccolo finestrino, sempre il medesimo, il secondo dalla coda, quello che dava sul piazzale. Vicino o lontano che si trovasse dalla corriera, che potesse distinguere o meno il profilo dei suoi passeggeri. Perché, chinando il capo con grazia solenne e ineffabile, come in un soave saluto, e socchiudendo gli occhi, le labbra appena piegate in un sorriso dolcissimo di trasfigurata bellezza, sempre, sempre a quel modo, con un inchino più e regale, la beata Beata prendeva congedo. E il suo cenno piccolo, muto, inconfessatamente atteso, al sentire di ciascuno rivelava i crismi di una vespertina benedizione.